Vada, senatore. Per prima di tutto non sono senatore, mi chiami più così. Per dire la verità, io non ho mai pensato di essere un personaggio che interessa la storia. La Camera dei Deputati ha ospitato il convegno Randolfo Pacciardi, un protagonista del Novecento. Un'occasione per presentare al pubblico l'archivio personale di Pacciardi, donato alla Camera dall'Unione Democratica per la Nuova Repubblica e dalla famiglia dell'illustre esponente repubblicano, rappresentata dal nipote Franco Pacciardi. Ha aperto i lavori nella Sala della Lupa di Montecitorio il presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini. Il suo profilo umano e politico rimanda certo a un'altra Italia e a un altro secolo, ma c'è in quella intensa testimonianza civile una sostanza morale e ideale che non teme l'usura del tempo e che offre significativi insegnamenti anche all'Italia di oggi. Significativi insegnamenti a partire dal collegamento tra l'Italia repubblicana e l'Italia del Risorgimento. Un legame che non a caso Pacciardi sempre ribadire con convinzione, anche e soprattutto quando le prevalenti correnti politiche dei decenni passati parvero, in una certa fase, porre in secondo piano le storiche radici risorgimentali dell'Italia democratica. È proprio l'Italia di oggi che questo vincolo ideale e morale ha invece riscoperto e rilanciato sull'onda del 150° anniversario dell'Unità, può avvertire, l'Italia di oggi, quanto mai vicina e attuale la prospettiva di questo mazziniano ardente e appassionato che sapeva guardare al capolavoro storico dell'unificazione nazionale senza spirito di parte. Sono intervenuti il Presidente Emerito della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, Franco Angioni, Antonio De Martini, Paolo Palma e Giorgio Rebuffa. Combatterò, troverò sempre qualche bersaglio da colpire fino alla fine dei miei giorni.